ultimo tra gli ultimi, destinato mai a podio, bloccato da infortuni, preso di mira dagli altri che si sentono importanti, tutti lottano solo per i contanti. Rimango ultimo tra gli ultimi, perché per me conta l'amore del gioco, niente carte da bar, non importa la posizione, importa quanto dai nel tuo finale d'azione. Eterno secondo gradino, sin da ragazzino, sanato da ultra più che da genitori, alimentazione davvero sportivo, esercizi specifici per gli adduttori. Il padre un ex con la bocca piena di grandi consigli, mentre mamma la bocca piena di altri figli perduti. O solo che ti assicuri futuri tornei importanti, trofei e scongiuri infortuni. Hai tendini, temi che senza una riga bianca sta vita non fa per te. Pronto alla battuta, il corpo non ti aiuta, tu sei l'ultima giovane promessa non mantenuta. Gira la clessidra e ti fai più lento, vincono i più nuovi con molto più talento. Sei solo una foto in fondo all'allegato, passaggio breve da dorato a dimenticato. Rimango ultimo tra gli ultimi, destinato mai a podio, bloccato da infortuni, preso di mira dagli altri che si sentono importanti, tutti lottano solo per i contanti. Rimango ultimo tra gli ultimi, perché per me conta l'amore del gioco, niente carte da bar, non importa la posizione, importa quanto dai nel tuo finale d'azione. Sono qui che pisci in mezzo a quattro idioti, è la prassi modulare per il test dell'antidoping, i controlli di routine, i membri dei membri nel team, sono sporco e piscio come Rin Tin Tin. Se mi trovi positivo mi scordo la limousine, ma va ammazza scappo sì come il film di Wolverine. Sono Rocky Balboa che balbetta sul ring, un babbeo fuori moda come Blue con Babylon. Vinci onestamente ma va a far delle pugnette, questi tipi con la bici sembrano motociclette, ma che allenamento e prove sono solo provette, non resisti alla fatica mangiando solo bistecche. Quando succede proprio non resisto, non leggi il ritmo che preferisco, è normale che poi impazzisco, non leggi il ritmo che preferisco. Rimango ultimo tra gli ultimi, destinato mai a podio, bloccato da infortuni, preso di mira dagli altri che si sentono importanti, tutti lottano solo per i contanti. Rimango ultimo tra gli ultimi, perché per me conta l'amore del